Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Il programma che da ieri è con voi per portarvi fino alla fine di questo mese senza che vi facciate troppo male. Sì, siamo gli assistenti alla vostra estate, sia che siate in vacanza che siate rimasti a casa. Ci occuperemo di voi. Visto che ieri si parlava di quando saltano le vacanze, di quando non si è partiti, di quando improvvisamente sfuma un viaggio e molti dei vostri sms al 349-238-6666 riguardavano relazioni che finivano, mi ha mollato il fidanzato, mi ha mollata la fidanzata, insomma, visto che si parlava di coppie che scoppiano proprio in prossimità dell'estate, oggi, martedì 3 agosto, lo dedichiamo a questo, agli amori che finiscono proprio quando si sta avvicinando l'estate. Viene da pensare che l'amore sia inversamente proporzionale all'aumento delle temperature, ma oggi ci occupiamo di voi che siete rimasti single, di voi che volete essere single, perché ci sono anche quelli che puntano tutto sull'estate e magari decidono quest'estate mi innamoro e adesso vediamo che cosa succede, non si può sapere. Sarà probabilmente una puntata piena di luoghi comuni, ma guarda caso sono sempre dei luoghi affollatissimi, perché se dico agosto la prima cosa che viene in mente è moglie mia non ti conosco, e poi le donne sono tutte più scollate, le minigonne, i topless, e poi il maestro di tennis, il falò sulla spiaggia a cantare le canzoni di Battisti. Insomma, oggi cerchiamo di capire come si può sopravvivere se si è single in estate, sia per quelli che sono tornati ad esserlo, poveri loro, perché appunto sono stati mollati o hanno deciso di mollare proprio prima di partire per le vacanze, e sia invece per quelli che lo sono da anni e puntano tutto su questo agosto, come dicevamo. Quindi raccontateci le vostre storie anche oggi e condividete con noi le vostre tecniche di sopravvivenza per un'estate da single. Chiamateci in diretta all'800 24 00 24 oppure scrivete anche delle mail ad agosto@radio24.it. Perché vittime o carnefici, insomma, da qualunque parte la si guardi, un'estate da passare senza l'altro può essere veramente dura, ma noi siamo qua per cercare di farvela passare il più in fretta possibile. Tanto per entrare subito nel vivo della puntata di oggi, quindi, che si tratta di quando siete rimasti single, magari in passato, magari questa estate, o magari state decidendo di esserlo per i prossimi giorni, l'importante è non drammatizzare, perché prima o poi capita a tutti di diventare degli ex. Ragazzi, è scientificamente dimostrato, l'amore romantico e passionale finisce dopo nemmeno 1000 giorni dal nostro primo bacio. Professore, posso farle una domanda personale, visto l'argomento? Sono pronto a tutto. Ma lei è sposato? Io? No, io sono felicemente divorziato da quasi 8 anni. Ragazzi, rassegnatevi. Prima o poi nella vita siamo tutti destinati a diventare ex. Siamo tutti destinati a diventare degli ex, perché ci sono delle date di scadenza. L'amore dura 1000 giorni dal primo bacio. E allora cerchiamo di fare bene i conti e che non finisca proprio in prossimità dell'estate, delle ferie, insomma. Ma come possiamo fare se siamo rimasti soli? Quali sono le tecniche di sopravvivenza? Cosa è bene sapere sulle donne, sugli uomini, sugli ormoni che ad agosto esigono la loro vittima sacrificale? Qual è la vostra esperienza? Raccontatecela al 349-238-6666 oppure chiamate in diretta all'800 24 00 24. Ma soprattutto, perché finisce un amore? Perché proprio in prossimità dell'estate c'è bisogno di rinfrescarsi le idee? Vediamo quali sono i motivi che noi abbiamo selezionato per voi e vediamo se vi riconoscete. Ho bisogno di prendermi una pausa per riflettere. Devo rinfrescarmi un po' le idee. Forse dovremmo fare altre esperienze, da soli, da subito. Ho bisogno dei miei spazi, mi sento soffocare e non credo sia per il caldo. Tu non mi capisci mai quando arriva l'estate. In vacanza coi tuoi? Vacci tu! Capisco che in camper ci volessi andare solo io, ma non è un buon motivo per lasciarmi a piedi al primo autogrill. La temperatura cresce, il desiderio cala. Amore, diamoci del tempo per capire se siamo noi o se è il tempo. Ma non sarà solo questione di colonnine di mercurio che si alzano, no? C'è sicuramente dell'altro. Certo che essere single in estate, o single a tempo come li chiama un'ansa di qualche settimana fa, anzi visto il tema verrebbe da dire ansa da prestazione, essere single in estate e single a tempo come si diceva è un bel business, perché in Italia per esempio i single, cioè quelli che rimangono a casa e mandano la moglie e i figli in vacanza, dico moglie e figli perché tendenzialmente sono gli uomini che rimangono a casa per il 78%, ecco, questo è un giro d'affari che per l'Italia raggiunge i 200 milioni tra lavanderie, takeaway, palestre, ristoranti, centri benessere, perché sì, soprattutto in Lombardia gli uomini rimangono a casa e cosa fanno senza la moglie, senza i figli? Vanno a portare le camicie a far stirare in lavanderia, vanno al ristorante perché non hanno voglia di cucinare e addirittura rispetto al resto dell'anno spendono fino a 60 euro in più, cioè è incredibile, mentre per le donne che rimangono a casa in estate, quindi singola tempo al femminile, loro spendono solo 43 euro, sembra incredibile che le donne spendano meno, però insomma lui spende 60 euro, lei spende 43 euro, se siete rimasti soli, insomma, vediamo. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che... Forse non era la canzone giusta se siete stati mollati, è un po' uno strazio, però insomma siamo qua per trovare le tecniche di sopravvivenza per la vostra estate da single. Di questo oggi parliamo, di come fare a superare questo agosto se siete stati mollati, se avete mollato o se comunque siete single e avete deciso di passare una vacanza, ma magari memorabile, perché ce n'è sempre una memorabile, magari non è quella di quest'anno, se ci pensate bene, nella vita di tutti c'è stato un agosto, una vacanza da single memorabile. La mia era l'estate del 93 in Grecia, tanto per non smentire i luoghi comuni, e in barca a vela, ecco, un altro luogo comune, un altro cliché. I vostri sms al 349-238-6666. Allora, Franco da Milano mi dice: con 1200 euro al mese il problema dei single non esiste, si sta a casa tutti e due. Mentre non si firma, mollato ieri dopo 4 anni di fidanzamento, oggi prenoto un biglietto di sola andata per Cuba. Mario invece: estate da single è la situazione ottimale. Scrivetemi al 349-238-6666. Che cosa state facendo? Se siete single, appunto, che cosa avete programmato di fare? Oppure chiamate in diretta all'800-24-00-24. Perché sì, magari ci sono stati, come ci raccontavate ieri, dei viaggi già prenotati con la fidanzata che poi appunto ci molla proprio un paio di giorni prima. E cosa facciamo di questo viaggio, di questo pacchetto vacanza che ci rimane un po' sul groppone? Ecco, può succedere anche che o si trova l'amico o l'amica, si trova un altro compagno di viaggio che viene con noi, ma si può anche vendere, si può anche mettere su eBay. Per esempio, un portale come eBay Annunci, in estate aumentano fino al 78% gli annunci a tema vacanze. Vero Giulio? Vi racconto che in effetti è più o meno da un mese a questa parte che sono esplosi le svendite last minute di utenti che offrono i loro pacchetti viaggio, le loro vacanze in barca a vela o una casa in multiproprietà, che offrono a altri utenti che navigano sui bei annunci perché la fidanzata li ha lasciati o hanno avuto problemi con le ferie, con il loro lavoro, e quindi rimettono in vendita veramente a costi bassissimi su beannunci.it. Perché poi scrivono anche la motivazione. Allora, stiamo parlando con Giulio Ravizza, il Customer Relationship Marketing Manager di Bei Annunci. Non so se l'ho detto giusto. Sì, giustissimo. Ok, perché mi dicevi che qualcuno scrive proprio la motivazione del perché vende il viaggio. Esatto, sono più che altro le donne che scrivono di più la motivazione. Gli uomini tendono ad essere più discreti o a dire per cause, per motivi vari, motivi personali, motivi un po' come con le giustificazioni a scuola. Mentre le donne spesso dicono: a causa di un litigio col mio fidanzato, a causa di discordanza con mio marito sulle vacanze. Quindi sono ragioni tra le più strane. E quindi invece di annullare il viaggio e avere un rimborso solo parziale dell'agenzia, svendono a prezzo prezzi bassissimi, appunto il loro viaggio su eBay annunci. Certo, ma c'è anche chi cerca compagni di viaggio, chi cerca qualcuno magari che li può accompagnare, o questa è una cosa che si fa poco? Ci sono molteplici situazioni. Diciamo che c'è una categoria in eBay annunci che si chiama tempo libero, e una sottocategoria di tempo libero è proprio compagni di viaggio, quindi c'è proprio una sottocategoria con quasi 2000 annunci di persone che cercano compagni di viaggio. Poi entro la categoria naturalmente ci sono tante sfaccettature diverse, per esempio c'è sia chi cerca un passaggio, per esempio c'è Daniele di Roma, che adesso ho un annuncio proprio sotto, che partirà dopodomani a Milano e cerca qualcuno che lo accompagni per dividere la benzina. Oppure c'è invece proprio chi, come dicevamo prima, ha deciso di partire, ha litigato con la fidanzata e allora dice: bene, facciamo un gruppo di amici, andiamo in Grecia o in barca a vela. E vai con la Grecia, la barca a vela. Esatto. I luoghi comuni, fantastici. Senti, oppure tu hai qualche tecnica di sopravvivenza, visto che stiamo parlando di questo, il nostro programma si chiama Agosto, tecniche di sopravvivenza, per chi è rimasto magari in città e decide di non partire, decide di non utilizzare quel viaggio, c'è qualcosa che secondo te si può fare? Adesso, guardando gli annunci velocemente, vedo l'inserzione di Luca, che dice di essere di Milano, di aver 43 anni e che cerca amici maschio o femmine dai 33 ai 45 per creare un gruppo con cui uscire, andare al cinema o fare happy hour mentre tutti gli altri colleghi e amici stanno andando in vacanza. Quindi, ecco, come fare dei gruppi di sopravvivenza estiva, diciamo, nella calda Milano d'agosto. Perfetto, fantastico. Ci sono anche, non so, lavoretti o cose che si possono fare? C'è qualcuno che decide di impiegare il suo tempo in altro modo, per esempio? Sì, ci sono annunci? Molte persone che hanno dovuto, come dicevamo prima, abbandonare l'idea di un viaggio con la fidanzata perché si sono lasciati, e allora ha semplicemente deciso di rimanere a Milano e fare lavori occasionali come il dog sitter o il cat sitter, o di innaffiare le piante di tutti i condomini, certo, raccimolando anche effettivamente un buon gruzzoletto alla fine. Eh sì, infatti noi di questo ne parleremo in una puntata dedicata. E sei stato davvero molto prezioso, i tuoi annunci sono serviti sicuramente anche a chi ci sta ascoltando. Grazie mille, Giulio. Grazie mille. Ciao. Ciao. Eccoci, i vostri sms arrivano numerosissimi al 349-238-6666. Stefano da Verona mi scrive: appena mollato, single in Grecia in barca a vela, in perfetta forma fisica e mentale, ho tenuto alto l'onore degli italiani, 1995, ci siamo sbagliati di 2 anni. Oppure, riferito invece al discorso dei single a tempo, un mese di lavanderia, 64 euro, single d'estate, non a prezzo, Alberto. Ma adesso parliamo con un ospite d'eccezione, visto che stiamo parlando di single in estate. Abbiamo deciso, visto che appunto si parla di Grecia, di luoghi comuni, abbiamo deciso di chiedere che cosa ne pensa Franco Trentalance delle vacanze da single. Per esempio, Franco, tu cosa ne pensi? Se dico single in estate, come la vedi? Ma la vedo bene, perché no? Insomma, ma intanto sono cose che si possono decidere sempre parzialmente, perché no? Al di là di qualunque proposito, sono sempre ragionamenti che si fanno in due, tra l'essere singolo o l'essere accoppiato, avere un partner. Per cui, insomma, uno che di necessità e virtù, uno che deve fare. Cioè, io poi non amo mai i drammi, no? Dico che i problemi veri nella vita sono altri, insomma, che non un fidanzato che ci lascia o una fidanzata. Anche perché, adesso dimmi tu come la pensi, quando due persone si lasciano, probabilmente una delle due ha fatto un cambiamento in una direzione diversa rispetto al partner. Verissimo, sì, così. Confermo. Essere ancora innamorati di una persona che è cambiata è un po' come essere innamorati del poster di Pamela Anderson, di una sorta di fantasma o di qualcuno defunto, perché la persona che tu amavi probabilmente non c'è più. Giusto, ma ti è mai capitato di fare una di quelle estati da single, quelle memorabili proprio, quelle che ti ricorderai per sempre? Io quasi tutte le estati da single, ecco. Ho avuto poche fidanzate in vita mia, per scelta direi, perché adesso ho rallentato molto col mio mestiere di attore hard a XXX, no? Però quando ero veramente tipo catena di montaggio, che lavoravo tantissimo, per come sono fatto io, avere una compagna a casa che mi aspetta, alla quale voglio bene, avrebbe reso molto molto più complicato il mio mestiere ma non sarà facile starti vicino, no? Posso mettermi dalla parte di chi ti aspetta a casa, non sarà facile. No, più difficile per me, per assurdo, almeno le donne che sono state con me, con le quali ho avuto dei rapporti insomma più seri, definiamoli così, loro avevano ribaltato: tu sei donna, forse riesci a capirlo, non so. È un paradosso. Più erano belle le attrici con le quali lavoravo, più era gratificata la mia donna al momento in cui sapeva che era lei la mia compagna, e su quello non c'erano dubbi. Ma perché secondo te in estate capita sempre questa cosa? Cioè spesso succede che arriva il caldo, no? Ci si spoglia, si vedono queste donnine in giro tutte con le minigonne eccetera, e si comincia a riflettere sulla relazione. Ora si dice: ma no, ma forse prendiamoci una pausa di riflessione. Ma perché sempre in estate? Adesso fuori dai cliché, dei luoghi comuni ovviamente, ma c'è secondo te un parallelo tra la colonnina di Mercurio e il desiderio, insomma, o altre cose? Beh, sì, sai, noi uomini siamo abbastanza primitivi, siamo basici nei nostri impulsi, no? Per cui noi si può dire, possiamo dire tette più fondo schiena uguale ormone che impazzisce. Perché l'uomo ha una sessualità popolare che si basa sul guardare, sul vedere, no? Non, visto che noi guardiamo, chiaramente più centimetri di pelle si scoprono, più noi ci agitiamo, e spesso facciamo anche delle grandi fesserie perché ci improvvisiamo tutti un po' seduttori, conquistatori, playboy, salvo poi tornare, no, a casa facendo le lacrime di coccodrillo: ho sbagliato. A proposito di playboy, ma come mai in estate viene fuori questo lato, no? Ci si crede tutti seduttori, in estate più che per il resto dell'anno? Ma sì, perché si è tutti un po' più esibizionisti, insomma, per cui l'esibizione di sé e del proprio fisico scatena poi certi meccanismi che però sì, li trovo, io in realtà un po' lo critico come atteggiamento, perché dico sempre che uno o seduttore o seduttrice, come no, o uno lo è o non lo è. Già. Senti, ma rimanendo all'interno dei luoghi comuni, appunto, dell'estate che spinge a trovare delle avventure, magari anche solo appunto a tempo determinato, ci sono delle mete secondo te tipiche per i single? Non so, mi ha mollato la fidanzata o il fidanzato, parto e vado? Ma sì, anche queste, mamma mia, altro che luoghi comuni. Cioè, ovviamente uno va dove c'è un'altra concentrazione di minigonne, no? Per chiudere, magari una piccola regola, una tecnica di sopravvivenza per chi si sta partendo per questa estate da single e vuole, insomma, non tornare a casa troppo sbucciato, mettiamola così, insomma, con troppi ammaccamenti. Ovviamente darei questo consiglio qui, che l'ho vissuto sulla mia pelle, di giocare sempre in casa. Allora, per il match, per match intendo, insomma, la ginnastica orizzontale, è in casa, in un terreno amico, esattamente come si fa a calcio, no? Perché giocare in casa è più vantaggioso che giocare in trasferta? In realtà non ci sarebbe un vero motivo. Allora, a me è successo un po' di tempo fa, io conobbi questa ragazza, ero a Barcellona in Spagna, conobbi questa ragazza spagnola, insomma, avevo l'hotel io e casa sua lei. Io, che ero un po' più ingenuo perché era qualche anno fa, ho detto: va, ok, andiamo da te, tanto è uguale, pensavo io erroneamente, andiamo da lei, cosa succede? Ci spogliamo, facciamo se non tempo a sdraiarci sul letto. Una sua amica bussa alla porta, perché era una vicina di casa, dice: guarda che il tuo ex sta arrivando da te che vuole fare pace. Aiuto. Porcaccia miseria, riprendo proprio come nei film i miei vestiti, mi infilo i pantaloncini al volo, corro, lei stava tipo al secondo o terzo piano, faccio le scale in su, non a scendere, vado tipo al quarto o al quinto piano, sento lui che entra due piani sotto, e poi come un assassino, cioè, riscendo le scale mestamente, per cui non ho combinato niente. Lei ha fatto pace col fidanzato e non l'ho mai più rivista. Insomma, ragazzi, giocate in casa vostra, dove gli imprevisti sono più prevedibili, più gestibili. Voglio dire, giocate in casa, nel vostro hotel, nel vostro appartamento, non andate in trasferta se potete. Grazie mille Franco, fantastico. Ciao, a presto, ciao, un bacio. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Sono le 10:32, siamo ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi puntata caliente, stiamo parlando di come sopravvivere alle vacanze da single. Se siete rimasti single, se vi hanno mollato, insomma, come fare quando si è da soli. Arrivano dei messaggi al 349-238-6666 del tipo: e quelli che lasciano ad agosto per poi tornare a settembre? Sì, è vero, io sono stata vittima per ben 5 anni di una cosa di questo genere, quindi so benissimo di che cosa si tratta. Ma abbiamo anche delle telefonate all'800 24 00 24. Parliamo con Luciana da Roma. Ciao Luciana. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Sono un po' fuori tema, ma volevo dirvi che io nel 1973 ho avuto la più bella estate della mia vita, perché ho conosciuto il mio attuale marito. Ma meraviglioso. Beh, no, non sei fuori tema, nel senso che tu sei partita sfidanzata e single e sei tornata con il sogno dell'estate. Eh sì, praticamente tra un po' sono 40 anni, volevo dire che, visto i tempi, mi sembra un record. Ma certo, ma senti, ma dove siete stati in vacanza? Dove vi siete incontrati? A Roma, ci siamo incontrati a Roma, non avevamo neanche una lira, siamo rimasti a Roma, ma andavamo tutti i giorni alla Siesta, che era un locale sulla Pontina che oggi non esiste più, e per il 73 ero molto sfruttata, se vuoi, no? Perché stavamo tutti i pomeriggi là. Certo. È stata la più bella estate della mia vita, la più bella, poi ne sono seguite tante altre diverse eccetera, sempre con lui, ma quella è indimenticabile. Ma che meraviglia, quindi una tecnica di sopravvivenza è partire e lasciare libero il cuore, quindi poi magari si torna, sì. Si torna con qualcosa, sì. Benissimo, sì, sì. Grazie mille Luciana, tanti buona estate. Per le nostre trasmissioni sono tutte belle, le seguo sempre. Grazie, ciao. Buona giornata. Ciao anche a te. Beh sì, è vero, l'estate può riservare un sacco di sorprese, appunto stiamo parlando dei single dell'estate, dei single che partono per le vacanze e appunto possono anche tornare fidanzati, come si è detto. Ma quelli che vengono mollati, non so se avete notato, però sembra un po' che si riconoscano subito, no? I single, quelli che hanno la pupilla dilatata, l'occhio un po' appallato, sono un po' tristi, insomma gli è capitata così un po' tra capo e collo di essere stati lasciati e si capisce subito che sono lì un po' tristi e hanno bisogno di compagnia. Fra l'altro leggevo tempo fa una notizia che mi ha fatto molto ridere, che secondo me può c'entrare in qualche modo con questa cosa. Allora, si parla di giraffe, reminiscenza delle medie. Tutti sanno che le giraffe hanno il collo lungo perché riuscivano a mangiare sulle chiome degli alberi più facilmente degli altri e quindi sopravvivevano solo quelle che avevano il collo lungo. Invece il New Scientist dice che alla base del collo lungo delle giraffe invece c'è il sesso. C'è il sesso perché le giraffe maschio fanno necking, che è questo in gergo, si chiama necking, che va ad unirsi a tanti ying, a tanti ing che ci sono appunto sul sesso. Fanno a collate, a testate con gli altri maschi per contendersi la femmina. E quindi va bene, si portano a casa la femmina, sono quelli che hanno il collo più lungo e il collo più resistente. Faceva ridere perché, se ci pensiamo, chissà se in futuro, non so, Darwin aveva previsto che in qualche modo i single potessero avere un tratto distintivo, che li si potesse riconoscere in qualche modo. Ma oggi stiamo parlando di come si fa quando si rimane soli in vacanza. Abbiamo parlato di dopo questo tuffo nell'evoluzione delle giraffe in amore, vediamo il tuffo nella storia in amore. Che cosa è successo oggi, 3 agosto? Il 3 agosto del 1975 la Atari lancia sul mercato la versione domestica del videogioco Pong, un avo della PlayStation. Ne ha separati più la PlayStation del maestro di tennis. Il 3 agosto 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Ricordate Benigni in Non ci resta che piangere? Fidanzato della mia sorella. È americano. Era uno della NATO di Pisa. Se io per 5 minuti fermavo Colombo, questo imbecille non nasceva. E la mia sorella stava bene. Cosa non si fa per evitare pene d'amore? A proposito di America, il 3 agosto del 1961, verso sera, la mamma di Barack Obama cominciava ad avere le doglie. L'indomani sarebbe nato il 44esimo presidente degli Stati Uniti. Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ecco che cosa cosa ne pensa la gente per strada dell'estate da single. Forse non mi è mai capitato, perché ho sempre avuto un sacco di uomini, anche se ero single. Da 18 ai 48, saltuariamente single, e saltuariamente invece non più. Una bella estate da single ne ho fatta una sola, anche quella indimenticabile. Ho girato l'Italia, trovando amici dal nord al sud, treno, aereo e nave, ho preso tutto. Mi hanno appena lasciato, vado in Romania. Devo sfogliare l'album dei ricordi ormai. Allora, ci avete scritto un sacco di messaggi al 349-238-6666. Per esempio, questo non si firma. Sono fidanzato ma passerò le vacanze da single. Causa lavoro di lei. Cosa dici? Mi do da fare. Ma abbiamo anche delle telefonate all'800-24-0024. Parliamo con Laura da Milano. Ciao Laura. Sì, ciao Morena. Ciao. Allora, cosa succede? Qual è la tua vacanza da single? È quella di quest'anno o è quella di qualche anno fa? No, è successo qualche anno fa. Io, è una storia un po' pazzesca, perché sono stata mollata dal mio fidanzato sul traghetto che ci stava portando in Sardegna per le nostre vacanze. No! E lì per lì mi sono sentita veramente mancare. Poi, per fortuna, alla fine in Sardegna mi hanno raggiunto le mie amiche e alla fine abbiamo passato una vacanza da single e ci siamo divertite, anche se all'inizio è stata veramente dura. Ma ci credo, ma scusa, e lui è ritornato a casa quindi? Ha fatto il viaggio con te e poi è tornato a casa? Sì, mi ha lasciato sul traghetto, siamo partiti da Genova e alla fine in Sardegna poi è tornato a casa. Ha preso un aereo, è tornato a casa, ha preso un altro traghetto e esatto. È tornato a casa. Oh, mi dispiace. Beh, però comunque la tua tecnica di sopravvivenza è stato farti raggiungere dagli amici e fare una vacanza comunque bella. Sì, mi hanno aiutato loro, sono veramente state la mia tecnica di sopravvivenza. Le mie amiche del cuore mi hanno raggiunto e veramente mi hanno aiutato, mi Bene. Hanno tirato sul morale. E quest'anno dove andrai? Quest'anno sono felicemente fidanzata, spero almeno di fino alla partenza, una vacanza. Niente traghetti però quest'anno, eh? No, niente traghetti, partiamo con l'aereo e andiamo in Portogallo. Fantastico, altro mezzo di trasporto, chissà che magari non porti bene. Dai, buone vacanze Laura, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ecco, può succedere di tutto, come abbiamo detto, appunto, essere single in estate può riservare delle sorprese, ma c'è sempre la tecnica di sopravvivenza dietro l'angolo. Ma se siete rimasti a piedi, non sapete come fare appunto per organizzarvi questa vacanza, vi è appena magari appunto finita una relazione e dovete decidere che cosa fare, ci sono una serie di siti specializzati dove si possono organizzare appunto delle vacanze, siti specializzati per chi vuole dichiarare subito che è single e quindi andare dicendo: sono qua apposta per vedere se riesco a tornare a casa non più single. Già i nomi sono tutto un programma. Per esempio c'è www.viaggipersingle.it, chiaramente qui si dichiara subito che si va per quello. L'altro è www.crocereonline.it. Nella formula one to one permette di avere, quindi uno a uno, permette di avere un numero paritetico tra uomini e donne. Si parte per una crociera, tanto per rimanere all'interno dei luoghi comuni. Anche loro quest'anno faranno Grecia, ovviamente Turchia e Croazia, e c'è uno staff dedicato che aiuta a facilitare le conoscenze e quindi magari ad arrivare alla fine della vacanza con, non so, un amico, avendo conosciuto qualcuno che può essere interessante. Oppure c'è www.osolomio.com, e già questo un nome fantastico secondo me, è un sito in inglese che però appunto fa il verso alla canzone, osolomio.com. Anche qui, se vi va di perderci un po' di tempo, ci sono delle cose interessanti. Ah, a proposito, se siete degli italiani in vacanza all'estero, direi che è bene impararsi qualche strofa di O Sole Mio, perché tanto prima o poi vi chiederanno di cantarla. Ma se invece volete fare delle vacanze senza dichiarare subito che siete single, ma volete partire in gruppi più piccoli, dove le persone che sono con voi condividono con voi gli stessi interessi, c'è Avventure nel Mondo. Avventure nel Mondo è appunto questa organizzazione dove si possono fare dei viaggi con delle persone che esattamente come voi hanno voglia di stare da soli, hanno voglia di fare appunto delle avventure, e c'è addirittura un decalogo che si può scaricare dal sito di www.avventurenelmondo.it, dove si capisce subito qual è lo spirito di chi sceglie di fare una vacanza con loro. Appunto c'è viene spiegato come si gestisce la vita di gruppo, c'è l'autogestione dei partecipanti, c'è una cassa comune per le spese, insomma è un modo anche per autoselezionarvi, quindi se volete partire con Avventure nel Mondo sapete già che avete delle persone che la pensano come voi. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Ben ritrovati ad Agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando di quell'estate che avete passato da single. Chiamateci all'800 24 0024 per raccontarci le vostre storie, oppure scrivete i vostri messaggi al 349 238 6666. Sì, perché servono delle tecniche di sopravvivenza se si è single. A parte che l'estate mette a dura prova anche le coppie più rodate, ma di questo ne parleremo la prossima settimana, quando sarete probabilmente spaparanzati al sole di fianco alla persona che magari durante il resto dell'anno vedete solo alla sera, ma che in vacanza vi tocca sorbire 24 ore su 24 con i suoi tic, le sue manie. Perché io in casa mia non sono libero di dire niente, perché questa vipera isterica mi deve rompere i coglioni per qualunque cosa. Senti, non è che siamo al ristorante che ti lamenti col cameriere, giusto? Comunque, se ci tenevi tanto potevi portare tutti quanti a cena fuori, visto che io sono stata tutto il giorno a cucinare. O costava troppo? Ah no, la figura del tirchio davanti ai miei amici, questa non me la fai fare! Cioè, se io l'avessi uccisa la prima volta che ci ho pensato, adesso già sarei fuori di galera! Ah, se invece ti avessi ammazzato io in galera non ci andavo proprio per niente, mi davano l'infermità mentale solo per aver sposato te! Beh, senza arrivare agli omicidi, perché la felicità è così: se non soccombete voi, esige da voi una vittima. Ci sono varie cose che si possono fare, no, per tirarci fuori il lato positivo. Per esempio, parlavamo di luoghi comuni. Solo in estate abbiamo visto che andare in Grecia va per la maggiore. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti: quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti, mi dicesti: siamo onesti, vuoi che per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi. Ma beh, io ero con Cristina, non ero con Giovanna, e diciamo che Cristina non si presta a nessuna rima baciata interessante. Ma sempre per rimanere all'interno dei cliché, visto che abbiamo detto che andare in Grecia va per la maggiore, in barca a maggior ragione ancora, perché pare che la barca aiuti. Ma ne parliamo con Simone Todeschini, che è responsabile eventi di Water Tribe e che organizza appunto crociere dalle quali si torna spesso fidanzati, vero Simone? Assolutamente vero, e il cliché è dimostrato dal fatto che la vita in barca consente una condivisione totale di tutta la parte della giornata, per cui persone che non si conoscono vengono messe a bordo spesso di barche composte da noi, condotte da uno skipper, e queste persone che sono poi in un momento assolutamente di vacanza e spensieratezza, e soprattutto sono spersonificate dai ruoli perché si vive tutto il giorno in costume, hanno modo un po' di reinventarsi e di raccontarsi. Scusa Simone, ma questo rumore che sento che cos'è? È la barca? È la barca, in questo momento sono, per potervi parlare, chiuso dentro una barca. Ma sei fantastico. Quindi insomma si sta tutti pigiati sotto coperta e insomma ci si scambiano delle confidenze, si può anche tornare fidanzati, questo vuoi dire? Sì, spesso si torna fidanzati, un po' perché alcune vacanze in realtà sono prettamente dedicate ai single, quindi persone che vivono un momento della propria vita particolare e quindi hanno voglia e modo di conoscere altre persone. Spesso gli equipaggi vengono composti ovviamente con una formula mista, anche per un discorso di condivisione delle cabine, certo. Non condivisione etero, ma condivisione di uomini con uomini, donne con donne, che poi ovviamente hanno modo di conoscersi all'interno di spesso flotte numerose, quindi non solo all'interno del proprio equipaggio. Certo, e dove andrete quest'estate? Quest'estate, appunto, come diceva Bisio, andremo in Grecia. Ovviamente. Che offre tantissime isole, per cui tantissimi itinerari diversi, devo dire degli scenari naturali splendidi, e soprattutto baie ancora molto poco frequentate, per cui abbastanza elitaria come situazione. Parlavi di skipper, secondo te lo skipper come la vive questa cosa? Cioè lo skipper ha vita facile? Lo skipper ha vita difficilissima, perché si ritrova spesso a coordinare persone che sono alla prima esperienza, e questo può essere anche una cosa molto divertente, però spesso si trova poi a dover anche gestire gruppi che a volte non hanno proprio quello che si dice il piede marino. Lo skipper poi ha dei plus, che è lo skipper, e quindi è comunque osservato da tutti con un occhio un po' più interessato ed è sempre un pochino al centro dell'attenzione, per cui ci sono vantaggi e svantaggi del ruolo. Allora, tu che sei velista di professione, raccontami qualche cosa, non so, un aneddoto, qualcosa che ti è capitato sempre relativo all'estate da single, perché di questo stiamo parlando, no? Del fatto che in estate tante volte ci si trova soli e si deve inventarsi, ci si deve inventare una vacanza. Non so, qualcosa di divertente che ti è capitato? Beh, divertenti molte cose, molti fatti. Sicuramente divertente è vedere come la gente vive il proprio tempo libero, e divertente vedere poi quando la si rincontra nella realtà quanto è tanta la differenza rispetto a come si pone nel tempo libero, per cui queste vacanze risultano a volte spesso molto uniche, perché sono veramente un momento in cui una persona è in grado di esprimersi e, diciamo, senza grosse barriere, senza veli. Certo, ma in una parola per dire una tua tecnica? Una mia tecnica di che cosa? Di sopravvivenza. Secondo me essere abbastanza se stessi. Adesso questa sembra una frase un po' retorica, però in realtà il divertente di una vacanza in barca, o comunque di una vacanza un po' lontana dalla civiltà, è proprio mollare le dighe, divertirsi ed essere se stessi. Beh, allora ti auguriamo una bellissima vacanza. Sì. Ti auguriamo una buona vacanza e speriamo che, insomma, anche questa volta si tornino degli equipaggi felicemente fidanzati. Grazie Simone. Abbiamo fatto 20 matrimoni. La miseria. Allora siete degli specialisti. Grazie mille. Grazie. A presto, ciao. Ci chiedono di ripetere alcuni dei siti che abbiamo citato prima. Allora, www.osolomio.com, www.avventurenelmondo.it oppure www.crocereonline.it. Ma siamo quasi alla fine di questa seconda puntata insieme e adesso arrivano le vere perle della giornata, le tecniche che ci possono servire per farci uscire da questo agosto. Moglie mia, non ti conosco, quindi pronti con l'agendina, col foglio bianco, col retro della bolletta del gas, con il sacchetto del pane, insomma pronti per scrivere? Quella volta che è finito un amore, sarebbe stato bene sapere che... Uno, la felicità non esiste. 2. L'amore dura al massimo 1000 giorni. Eravate al 999esimo. 3. Poteva andare peggio. Poteva essere il tuo compleanno o Natale. 4. Appena senti scendere una lacrima, bussa con lo sguardo alla scollatura della tua vicina di ombrellone. 5. Le regole del buon vicinato impongono di farlo accomodare almeno per un caffè. Le smagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina, sono ancora bambina. Un pranzo da sposa, butterò giù qualcosa. E questa voglia che non passa mentre dentro bussa. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. 10:57, siamo ad agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando della vostra estate da single. I vostri messaggi al 349-238-6666 sono numerosissimi, così come le telefonate all'800-24-0024. Uno dei messaggi dice: la barca secondo me è simile ad un grande fratello galleggiante, la chiave è simile, Franco da Como. Ma che cosa c'è da fare questa sera se siete single o se volete invitare qualcuno a uscire con voi? Ci sono varie cose da fare in giro per le città. Per esempio, comincia oggi a Venaria, a Torino, Le macchine delle meraviglie, una mostra su 400 anni di cinema, un suggestivo racconto per immagini sulla lanterna magica e i suoi legami con il cinema e l'arte d'avanguardia. Mentre è l'ultimo giorno della mostra Creatività e Sostenibilità a Venezia, allo spazio Tetis, location artistica all'Arsenale di Venezia, che vedrà esposti i lavori di 30 artisti selezionati tra gli studenti, italiani e stranieri, dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Qui il filo conduttore della mostra è la creatività come risorsa e insomma il rapporto di crescita costante fra uomo e natura. Magari vi viene qualche idea creativa per uscire dalla singlitudine. Dalle 10 alle 18 questa mostra allo spazio Tetis, come vi dicevo, al Castello Arsenale, per arrivarci attraverso l'autobus, fermata Bacini, linee 41 42 51 52. Per informazioni, spazio tetis@tetis.it. Oppure, visto che stiamo parlando di coppie che scoppiano, alle 21.30 al porto della Spezia fa tappa il tour della reunion d'Elite FIBA, quindi qualcuno si rimette insieme, che bello. Ma abbiamo finito anche per oggi, vi abbiamo dato le nostre tecniche di sopravvivenza e spero vi siano servite a qualcosa. Ci ritroviamo sempre qui domani alle 10 del mattino con Agosto, tecniche di sopravvivenza. Ringrazio Vittoria Mussini, Laura Faggini in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Ah, prenotatevi per il caffè della prossima settimana, Agosto è tra radio24.it. Ciao e buona giornata. Ah, se mettete in pratica qualche tecnica e funziona, fatecelo sapere. Agosto, tecniche di sopravvivenza.